Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, nonostante tutte le rassicurazioni battute ieri dalle agenzie, in realtà l'IVA è stata aumentata, ormai è cosa nota. In realtà ci occuperemo molto della legge di stabilità, che ripeto è una volta si sarebbe chiamata manovra correttiva, una piccola legge finanziaria, perché molte delle novità introdotte, al di là del valore complessivo che è sulla parte più alta di quanto stimato, 11 miliardi e 6 per la precisione, il ritocco di un punto delle prime due aliquote dell'IRPEF, e questo anche questa cosa nota, e però l'innalzamento di un punto dell'IVA ancora. Per quello che riguarda i vari aspetti, l'IRPEF passa nell'aliquota più bassa dal 23 al 22% per i redditi fino a 15.000 euro, dal 27 al 26% per lo scaglione tra i 15 e i 28.000 euro. Molte preoccupazioni dal mondo dei consumi, da chi rappresenta soprattutto la grande distribuzione, li ascolteremo. Oggi c'è stato anche un forum qui al Sole 24 Ore a cui hanno partecipato i principali esponenti proprio del mondo della grande distribuzione organizzata, preoccupazione per l'aumento dell'IVA chiaramente, dall'altro lato scontro o comunque tensioni ancora sui tagli alla sanità, dopo che questo è stato il principale elemento di tensione ieri del Consiglio dei Ministri tra il Ministro Balduzzi e il Ministro Grilli. Dicevo, su questo anche per esempio il PD ha detto: ci sono cose da aggiustare, diremo la nostra su tagli alla sanità e alla scuola. Sulla scuola il timore che si possano ridurre di 6.300 o 6.400 i posti di lavoro degli insegnanti, e poi il segretario della CGIL Susanna Camusso che dice è una manovra depressiva, l'aumento dell'IVA è solo in parte compensato dai tagli all'IRPEF. Diverso il giudizio invece del segretario della CISL Raffaele Bonanni, che dice sull'IRPEF è una svolta ed è un segnale importante. Anche qui la si può vedere in due modi: aumenta di un punto percentuale la tassazione indiretta, quella che colpisce tutti, ma va a colpire anche alcuni consumi, diminuisce di un punto percentuale l'aliquota per i redditi più bassi e quindi per chi dovrebbe avere più bisogno, al netto di chi dichiara redditi evadendo. E questo è il problema poi dell'evasione fiscale, perché tu rischi di essere avvantaggiato, pur essendo un evasore, da una manovra del genere, da una riduzione dell'IPEF. Però è sicuramente una strada presa: si abbassa, seppur di poco, la tassazione sul reddito da lavoro e viene alzata ulteriormente la tassazione indiretta. Di questo parleremo dalle 17.40 in poi. Prima di tutto faremo come sempre i mercati e anche invece le notizie che arrivano a questo punto. Non è più un problema di sprechi e basta e di inefficienze delle regioni, è ormai un problema di si va direttamente nel penale. Avete sentito nei nostri GR degli arresti di oggi. L'assessore Domenico Zambetti accusato proprio di aver intascato soldi, oltre che di aver pagato 200.000 euro, per comprare 4.000 preferenze in vista delle elezioni del 2010, e niente proprio di meno che alla 'Ndrangheta. E qui obiettivamente il tema diventa ancora più complicato, ma abbiamo anche notizie sugli sprechi delle varie regioni. Come vanno le borse? Nonostante il Fondo Monetario Internazionale, che oggi ha stimato in una cifra molto molto pesante quanto potrebbero calare gli asset, cioè le partecipazioni delle banche europee, fino a 4.500 miliardi di dollari, con un tonfo fino al 18%, l'ha detto José Vinals, capo Dipartimento di Mercati Monetari del Fondo Monetario, e che con una stima che supera dei 700 miliardi quella di aprile. Dicevo, nonostante questo, le borse non vanno così male e non vanno così male i titoli bancari, eccezione fatta per il Monte dei Paschi, che però dopo le dichiarazioni di ieri di Profumo, aumento di capitale e quant'altro, vive di un calo proprio. Il Monte dei Paschi perde il 3,5%, poi la Popolare di Milano perde l'1,80%, Unicredit perde l'1,60%, Epoca Altro, Generali meno 0,70%, Intesa San Paolo meno 0,70%, la borsa è negativa complessivamente di uno 0,40%, in linea con Francoforte che perde lo 0,30%, Parigi che perde lo 0,25%, Londra perde lo 0,31%, l'America perde lo 0,35%. Ancora sul fronte titoli, bene in pregilo più 3,90, Ferragamo più 2,30, Eni più 1,70, Ansaldo più 1%, Lottomatica più 0,60%, Pirelli mezzo punto percentuale di aumento in questo momento, e Campari mezzo punto anch'essa. E quindi le vicende che riguardano, insomma, che stanno travolgendo la politica regionale, devo dire, e poi l'impatto della manovra finanziaria. Non ne parleremo solo oggi, manovra finanziaria, la chiamo così perché è una manovra correttiva, legge di stabilità fa capire poco, è una manovra correttiva. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Calo a $1,760 l'oncia, petrolio in calo a $92 il barile. Il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni, oggi nel corso di un'audizione alla Commissione Industria del Senato ha detto che l'Eni non esclude altre iniziative sul prezzo della benzina dopo lo sconto lanciato la scorsa estate. Ricorderete l'iniziativa dell'Eni, poi devo dire seguita da molte altre compagnie petrolifere. Del Fondo Monetario abbiamo già detto, oggi c'è stata un'asta importante per il Tesoro, 11 miliardi di bot da collocare, cioè abbiamo dovuto trovare compratori per 11 miliardi di debito, bot a 3 mesi e un anno, e purtroppo è aumentato il rendimento, cioè abbiamo dovuto offrire di più per trovare i compratori, allo 0,76% contro lo 0,70% di settembre, il bot a 3 mesi, e all'1,94% rispetto all'1,69% il rendimento a un anno. Adesso arriviamo, vedo molti sms sulla legge di stabilità, adesso arriviamo anche lì. L'industria, intanto, la produzione d'agosto è tornata in rialzo sul mese più 1,7%, ma in calo di 5 punti percentuali rispetto a un anno prima. E poi ancora Fiat ha visto tagliato il suo voto da Moody's a un voto BA3. Marchionne ha detto che il taglio del voto non è una sorpresa, e poi ha chiesto che l'Unione Europea la smetta di firmare accordi di libero scambio, almeno per ora. Dice Marchionne, non si prevede alcuna ripresa del mercato nel 2013. E poi ha polemizzato con Matteo Renzi. In mattinata Renzi aveva criticato le scelte del Lingotto sul piano Fabbrica Italia, affermando che così si prendevano in giro gli operai. Matteo Renzi ha detto: Marchionne è la brutta copia di Obama, ed ha aggiunto: è il sindaco di una piccola e povera città. Allora, fatti loro. Le posizioni di Renzi, le posizioni di Marchionne, non capisco se posso dirlo, perché offendere Firenze, che non è piccola per essere in Italia, non è povera ed è soprattutto anche molto bella, per questo. Marchionne risponde a Renzi, ma lasci stare Firenze, il sindaco di una piccola e povera città, mi sembra un po' uno scivolone. Sul fronte auto, chiudiamo con questo, la Toyota ha richiamato 7 milioni e mezzo di vetture nel mondo a causa di problemi all'impianto elettrico dei finestrini. Praticamente sono i modelli Corolla e Camry, potrebbero causare addirittura potenziali incendi. La mossa è l'ultima del suo genere dopo gli oltre 10 milioni di vetture richiamate negli anni scorsi per problemi ai freni o al software dell'impianto frenante. E poi è saltata, anche qui contrariamente a ogni rassicurazione, l'annuncio, la fusione tra EZ e BAE, hanno annunciato infatti che è fallito il negoziato per la fusione tra i due gruppi. (349) 238 6666 per i vostri sms. Allora, abbiamo notizie anche sugli sprechi delle regioni, sui presidenti di provincia, sulla regione Sicilia che ha 1600 dirigenti ma continua a assumere dall'esterno, con le novità dei viaggi istituzionali del presidente Franco Fiorito, con cui giustificava molti dei soldi che spendeva. Ma ci sono cose incredibili. Ha anche caricato 400 euro per il pezzo di ricambio di una lampada, Fiorito, oltre a tutti i voli che poi raccontiamo con calma con la nostra rubrica prima di passare alla manovra. Qua però vorrei partire subito da quello che è successo in Lombardia / in Calabria, non tanto e non solo per il commissariamento ieri del sindaco di Reggio Calabria, un atto molto forte perché il motivo appunto è le infiltrazioni criminali, ma anche e soprattutto perché è stato arrestato un assessore della giunta Formigoni, non un assessore da poco, e l'accusa è pesantissima. In questo caso non è peculato o malversazione o spreco di fondi, qui stiamo parlando proprio di l'accusa è di aver pagato l'Andrangheta per ottenere un pacchetto di 4.000 voti, e questo getta una luce ulteriore su un tema che trattiamo da spesso, ossia quanto forte sia l'infiltrazione dell'Andrangheta nell'Inter milanese, vaso di Pandora scoperchiato dall'inchiesta del PM Boccassini che portò, lo ricorderete, un anno fa a decine e decine di arresti. 349-238-6666 per i vostri sms. Andiamo con ordine, perché ieri sera è successo di tutto a Reggio Calabria, tra l'altro commissariamento del comune, e su questo il sindaco di Reggio, Demetrio Arena, oggi ha espresso stupore e sconcerto per quanto emerso dalla conferenza stampa del ministro Cancellieri. Ho fiducia nelle istituzioni, sono tempi duri per la città, c'è un'ingiusta criminalizzazione di Reggio Calabria, dice il sindaco Demetrio Arena, eletto 17 mesi fa. I commissari si insedieranno, i tre commissari che per 18 mesi guideranno il comune di Reggio Calabria si insedieranno lunedì e avranno pieni poteri. E qui attenzione, il sindaco è ovvio che non possa dire sì, è vero, ci sono infiltrazioni mafiose dell'Andrangheta, però insomma, se il ministro Cancellieri prende un provvedimento del genere, rarissimo, nello scioglio soprattutto un comune così grande, beh, insomma, avrà i suoi buoni motivi per essere buoni, no? Poi non è che proprio Reggio Calabria ci abbia abituato a esempi virtuosi. Comunque, nel frattempo oggi alle 6 di mattina è stato arrestato il direttore operativo della Leonia, ossia la municipalizzata del comune di Reggio per la raccolta dei rifiuti. Lui si chiama Bruno De Caria, o Caria, penso De Caria, nel corso di un'operazione della Guardia di Finanza e della Polizia contro la cosca dell'Andrangheta dei Fontana. E si è capito anche meglio il perché del commissariamento del comune di Reggio Calabria, perché sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata che espongono l'amministrazione a pressanti condizionamenti. E questo è il fronte calabro, che si estende, come ripetiamo, da mesi e da anni anche alla Lombardia, con l'arresto di Domenico Zambetti, arresto dai carabinieri questa volta, è l'assessore alla casa della regione Lombardia, non un ruolo da poco, d'accusa di aver comprato un pacchetto di preferenze per la sua elezione nelle regionali 2010 da due esponenti dell'Andrangheta, 4.000 voti in cambio di 200.000 euro. E qui arriva la nostra Raffaella Calandra, che ha seguito oggi a Palazzo di Giustizia gli sviluppi e anche le dichiarazioni degli inquirenti. Buonasera Raffaella. Buonasera Sebastiano, a te nostri ascoltatori. Perché a Zambetti è stato anche contestato il concorso esterno in associazione mafiosa, che è una cosa un po' diversa dalla corruzione pura e semplice. E se non ricordo male, è una delle prime volte che viene contestato. È la prima volta che viene contestato qui in Lombardia, ad un politico soprattutto, ad una prima volta che viene contestato ad un assessore a maggior ragione. Si tratta del reato che indica, cioè la partecipazione, sia pur dall'esterno, quindi non come un membro affiliato dei clan, ma una partecipazione costante e consapevole a favore, in questo caso, dei clan calabresi, sia del versante ionico che del versante tirrenico, clan che, come ricordavi, si sarebbero in qualche modo, diciamo, comprati il loro uomo al Pirellone attraverso questo pacchetto di 4.000 preferenze che avevano permesso, anche avevano contribuito all'elezione appunto di Zambetti, che aveva avuto 11.000 preferenze, quindi tantissime, in cambio di soldi che sono stati proprio consegnate a mano, e ci sono le intercettazioni e i filmati che attestano proprio la spartizione di queste mazzette tra i vari boss. Addirittura in un'intercettazione fanno loro stessi conti e dicono: questa cosa qui a lui gli sarà costata 200.000 euro, quindi... Sì, perché nell'accusa c'è anche il conto: 50 euro per ogni voto garantitogli dai due esponenti dell''Ndrangheta. Tra l'altro non è oggetto di questo programma, ma questo lancia anche una ombra pesante su quanti voti controlli l''Ndrangheta in Lombardia, perché tu questo scambio lo riesci ad avere se poi effettivamente l''Ndrangheta ti porta i voti. Ora, 4.000 preferenze non sono poca cosa. E non sono le uniche di questa vicenda, perché oltre a queste che hanno portato all'elezione dell'assessore, ci sono i voti raccolti per l'elezione poi mancata della consigliere Sara Giudice, poi i voti che hanno permesso anche di fare eleggere dei sindaci dell'Interland milanese, e parliamo anche di realtà, di comuni importanti dove ci sono appalti importanti, dove ci sono comunque realtà imprenditoriali, quindi che alterano il mercato politico ma anche il mercato economico e istituzionali. Insomma, è l'arrivo in qualche modo delle mani dell''Ndrangheta nei gangli più sensibili della vita istituzionale, quindi anche economica. Allora, vi prego, stiamo parlando di temi serissimi. Lo dico a chi continua a pensare che tutto questo sia un gioco e scrive al 349-238-6666 per la Boccassini fa solo politica, sei un idiota. Guardate che qui la Boccassini intanto non c'entra niente in questo caso, perché no, tutto parte dalla sua indagine, ma non è stiamo ragionando di uno scambio di voti in cambio di soldi, e io se fossi in lei mi preoccuperei più di come è possibile che l''Ndrangheta muova 4.000 voti per le elezioni regionali, e molti di più probabilmente, che non diciamo dell'opinione sulla Boccassini o su un altro magistrato. Poi ognuno può pensare come vuole sulla Boccassini, ma qui stiamo ragionando su uno scambio di voti che ricorda, così la chiariamo a tutti, quello che da sempre viene contestato nelle regioni in mano alla mafia, ossia Sicilia, 'Ndrangheta e Campania. Ora, se vogliamo ragionare anche su quella portata di questa cosa nella regione guida del paese dal punto di vista industriale ed economico, che si riteneva, non dico illesa, ma marginalmente colpita da questi fenomeni, secondo me il tema c'è tutto. Ancora, l'assessore Domenico Zambetti avrebbe fatto assumere la figlia di Eugenio Costantino, presunto ndranghetista, in cambio dei voti della cosca, assunta all'Aler, e il politico si sarebbe speso anche per favorire la mafia calabrese su alcuni appalti. Promise il rinnovo del contratto di parrucchiera per la sorella di Eugenio Costantino ed è stato filmato a una cena in un ristorante milanese con il presunto boss dell''Ndrangheta, Paolo Martino. E via tutto un insieme di cose che voi leggete poi domani sui giornali. C'è anche l'arresto del fratello di Luigi Crespi, fratello dell'ex sondaggista Luigi Crespi, già finito pure lui nello scandalo per i crack dell'HDC e via. Voti anti-Minetti a Sara Giudice, che ha tenuto una conferenza stampa. Ha annunciato una conferenza stampa. Detto questo, mi sembra che, così entriamo anche nei temi proprio economici, che lo snodo principale per far entrare l''Ndrangheta si chiami società municipalizzate, cioè le partecipate dal, o meglio in questo caso non solo dal comune ma anche dalla regione. Prima di tutto però vi faccio ascoltare il presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, che dice: non ci penso alle dimissioni, l'accusa riguarda Zambetti. Il fatto è molto grave, vediamo quali sono le notizie che filtreranno nelle prossime ore. È chiaro che all'assessore Zambetti è revocata la sua delega assessorile, che sarà comunque gestita in maniera senza rottura di continuità, già negli incontri di questa mattina che erano previsti. La virtuosità di Regione Lombardia è nei numeri. Le colpe eventuali delle persone che dovranno essere accertate sono un capitolo diverso. Grave, molto grave, ma solo un capitolo diverso. L'accusa estremamente grave riguarda l'assessore Zambetti, che è già stato sollevato dal suo incarico. Vabbè, non spetta questo programma dare un giudizio politico. Faccio solo notare che la giunta Formigoni inizia ad avere un po' troppi assessori, non per 'Ndrangheta, per altri motivi. Lo stesso Formigoni è indagato. Sono 5 arrestati e 13 indagati su una giunta. Facciamo prima dire chi non è indagato e arrestato nella giunta Formigoni. Comunque, vabbè. Andiamo avanti, visto che evocavate la Boccassini nella conferenza stampa, per la prima volta, ha detto il PM, il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, per la prima volta dimostrata l'esistenza di un voto di scambio in Lombardia, la democrazia violata, c'è un patto mafia politica. Volevo focalizzare l'attenzione su quello che a nostro parere risulta importante e anche preoccupante da questo segmento della vita pubblica e criminale della Lombardia. E cioè, a nostro giudizio, è acclarato in questo caso di un rappresentante delle istituzioni che si rivolge a gruppi criminali, stiamo parlando di persone inserite nel contesto dell'associazione mafiosa denominata 'Ndrangheta, che fa capo a delle cosche africote e non solo, che ricoprono dei ruoli apicali all'interno della 'Ndrangheta. Quindi con la consapevolezza di rivolgersi sicuramente a dei mafiosi, forse per la prima volta è stato dimostrato in questa fase delle indagini il reato di quell'articolo 416 ter, che come voi sapete prevede che io chiedo voti e in cambio pago. In questo caso sarebbero stati pagata la somma rateazzata di 200.000 euro, e in ben due occasioni si è avuto anche modo di riscontrare questo pagamento. E bisogna mettere in relazione i due aspetti inquietanti, che nel momento in cui vi era, diciamo, una volontà di non pagamento, di non ultimare questo accordo, questo patto criminale che è stato fatto tra un esponente delle istituzioni e un gruppo criminale, è evidente che in questo caso sono scattati quelli che sono i valori tipici, valori ovviamente lo uso in termini paradossali, e cioè che non si poteva sottrarre al pagamento, e quindi sono scattate le minacce, anche atti di intimidazione, per cui è evidente che alla fine il credito è stato pagato. Allora, dimostrazione che purtroppo il tema della criminalità organizzata è un tema anche economico, è uno dei motivi per cui il nostro sud non decolla, per cui non arrivano gli investimenti esteri in Italia, assieme alla burocrazia e alla lentezza della giustizia. Dico, a nessun gruppo piace pagare il pizzo o essere ricattato, no, nella vita. E guardate il nostro sud che danni ha avuto da questa presenza. Abbiamo fatto anche 3 puntate sui costi e i guadagni della criminalità organizzata. Dicevo, a dimostrazione di questo, molti ascoltatori stanno scrivendo al 349-238-6666, sono commercianti o piccoli imprenditori che segnalano che le pressioni nell'interland milanese ci sono e come. Allora, invece che mettere la testa sotto la sabbia, cerchiamo di affrontare il tema. Poi vengo agli indagati sulle spese, e quindi su come venivano utilizzati i soldi della regione. Questo è tutto un altro filone, perché oggi la Guardia di Finanza è andata al Pirellone, quindi Regione Lombardia, è tornata in Lazio, è andata alle Marche, Regione Piemonte, ma questo è il fronte, diciamo, utilizzo improprio di risorse pubbliche. Adesso stiamo affrontando e chiudendo il fronte infiltrazione della 'Ndrangheta, che muove pacchetti di voti, secondo l'accusa, gli arresti fatti oggi dalla Boccassini per fare eleggere un consigliere, nello specifico Zambetti, alla Regione Lombardia. Dicevo, Raffaella, il ruolo delle società municipalizzate o partecipate alle regioni, anche alla luce di quanto ricordavamo sulle indagini invece a Reggio Calabria. Sì, è soprattutto lì a Reggio Calabria che emerge nella presenza, anzi viene definita dal giudice che ha firmato gli arresti di questa mattina come la nuova frontiera delle infiltrazioni dei clan nel tessuto economico e sociale della città, perché questa società partecipata, la Leonia, il cui appunto segretario generale è stato arrestato questa mattina, era addirittura diventata una società proprio oggetto di spartizione, di contrattazione tra i vari clan, per cui, e parliamo della raccolta dei rifiuti, quindi non di una società che si occupa di qualcosa di secondario. Ebbene, intorno a questa Leonia c'era stata anche proprio una contesa, diciamo, tra i vari clan, che ad un certo punto nel 2007, tra 2007 e 2008, se la passano dal clan dei Fontana, che non rispettava, diciamo, le regole stabilite, ad un triunvirato che teneva insieme le principali famiglie di 'Ndrangheta, i Condello, i Tegano e i De Stefano. Questo per quanto riguarda Reggio Calabria, appunto, il giudice dice è la nuova frontiera delle infiltrazioni, anzi dice anche che mostra l'incapacità a essere ottimisti, aggiunge il giudice con un pizzico di ironia e anche di come dire, di amarezza rispetto anche al scioglimento del comune proprio ieri, dell'incapacità del municipio di monitorare che cosa accadesse all'interno di una sua partecipata. Tutt'altra scena a Milano, ma di nuovo abbiamo una società partecipata che è la Metro Engineering, una società appunto che si occupa delle metropolitane, ai cui vertici c'è il padre di Sara Giudice, appunto Vincenzo Giudice, il quale raccoglieva voti per fare eleggere la figlia, anche se in questo caso sono stati gli stessi magistrati a precisarlo, è l'unica volta in cui i boss, diciamo, si sono presentati a lui come una specie di prestanome, diciamo, non dicendo esplicitamente per conto di chi andavano, quindi viene lasciato un po' un margine di dubbio, però comunque il ruolo e la presenza è una società estremamente sensibile, e lui comunque aveva promesso anche un aiuto in futuri appalti, sia giù a Cosenza nella tramvia, sia anche nelle scuole e in altre realtà milanesi. Allora, diciamo, per usare un linguaggio economico, nel ringraziare Raffaella Calandra, che il modello di business che la 'Ndrangheta ha da sempre applicato in Calabria lo sta esportando, visto che è un modello di successo lì, lo sta esportando in Lombardia, quindi compravendita di voti, racket e pizzo, rilevare le aziende in difficoltà, e questo è un tema che abbiamo messo in evidenza in tempi non sospetti: se le banche non aiutano alcuni imprenditori che meritano, li buttano dritti nelle mani della criminalità organizzata. E quarto aspetto, entrare nelle municipalizzate, cioè provare l'ingresso là dove c'è il grasso, perché gestire i rifiuti, gestire l'elettricità, gestire, faccio nomi esempi a caso, gestire i trasporti significa gestire tanti tanti soldi, come abbiamo visto anche in questi giorni. Chiudo questa parentesi e vado sul metro e la pubblicità, poi dovrò raccontare invece le indagini sui conti delle regioni, arriveremo poi alla borsa e invece le misure prese dal governo ieri. Faccio notare, come scrivono molti ascoltatori, che in Lombardia il tema è particolarmente caldo perché c'è l'Expo, e quindi su questo bisogna estirpare qualunque tipo di infiltrazione della 'Ndrangheta prima che sia troppo tardi, e soprattutto ben vengano i repulisti se la Lombardia si gioca la faccia sull'Expo. Che ne dica, amici, che quando parla della regione Sicilia dice che il rapporto Falcone Borsellino dà una brutta immagine alla Sicilia, per chi viene da pensare subito alla mafia. Comunque, grazie Raffaella Calandra. ...17:42 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, continuiamo a parlare delle regioni, in questo caso non di infiltrazioni però mafiose. Attenzione, voglio essere molto chiaro su questo. Sequestrati i rendiconti del PDL e della Lega dalla Guardia di Finanza, che questa mattina ha perquisito l'ufficio legale del Consiglio regionale della Lombardia per vedere le spese sostenute dai gruppi di PDL e Lega Nord dal 2008 al 2012. Verifica della Guardia di Finanza sulle cene e viaggi della Lega e del PDL. Indagati tra i consiglieri della Lombardia: Davide Boni, Lega, l'ex assessore Franco Nicoli Cristiani, PDL, il consigliere Massimo Buscemi, PDL. L'accusa di peculato e truffa aggravata nell'ambito dell'indagine che oggi ha portato appunto la Guardia di Finanza al Pirellone, e salgono con l'assessore Massimo Buscemi a 14 politici fra Giunta e Consiglio indagati in Regione Lombardia. Ci spostiamo al Lazio, perquisizione della Guardia di Finanza anche al Consiglio del Lazio, a tutti i gruppi consiliari. Il capogruppo dell'Italia dei Valori è indagato per peculato. Salvatore Maruccio si sarebbe appropriato in maniera indebita di 500.000 euro di fondi destinati al partito. Ancora, in realtà, oltre a questi 500.000 euro in bonifici, ci sarebbero altri 200.000 euro che sarebbero stati prelevati dai due conti correnti regionali dell'Italia dei Valori. Io continuo a dirlo, ci sono troppi soldi per i consigli, per i consigli politici, per la parte diciamo destinata al partito in questi consigli regionali. Levategli i soldi, fate un unico fondo della regione quando uno ha bisogno, a parte il fatto che la campagna elettorale se la paga, ma quando uno ha bisogno per qualunque spesa di rappresentanza preleva da un unico fondo. Non si capisce perché prima date i soldi e poi uno deve giustificare come li ha spesi, ma è ovvio che se li ha la tentazione è forte in questo paese. Ha detto Maruccio, le risorse del gruppo sono state utilizzate da me solo per fare attività politica. Si è comunque dimesso. Le Marche, costi della politica, anche qui la Guardia di Finanza è nella sede del Consiglio delle Marche, controlli estesi a tutti i gruppi politici, stanno controllando i finanzieri anche i cedolini della paga e quindi i decreti di liquidazione dei compensi ai singoli consiglieri. Dopo 6 ore se ne sono andati. Giusta la verifica, dice il presidente delle Marche Vittoriano Solazzi. In Emilia Romagna la Guardia di Finanza è tornata alla regione. In Piemonte di nuovo la Guardia di Finanza è andata alla regione per l'appalto della nuova sede. E io non ho molta voglia di scherzare oggi, perché insomma qui si sta generando veramente un verminaio, o meglio, vabbè. Però devo leggere alcune notizie anche oggi della crisi, degli sprechi. Abbassare, puttare anche più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, drag e più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. Evasori legalizzati, drag e più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Drag e più. Allora, domani alle 18.30 nella Sala Collina qui in via Monterosa 91, sulle 24 ore ci sarà la presentazione di questi filmati Disperati Mai, e leggeremo anche alcune delle lettere, le leggerò io, migliori che sono arrivate in questi mesi con l'iniziativa Disperati Mai. No, lo dico perché quello che sto per leggere mi fa venire una rabbia che ho difficoltà a contenere, perché da un lato abbiamo migliaia di lettere di anche bellissime, alcuni di voi le ricorderanno, di uomini che ringraziano le loro mogli per essere stati vicini in momenti di difficoltà, quando hanno pensato a soluzioni estreme che non vanno mai intraprese, di imprenditori, artigiani che non riescono a tenere un fido bancario, che vengono in molti casi, in alcuni casi ingiustamente penalizzati da Equitalia, che non guarda in faccia nessuno in quei casi. E poi dall'altro, adesso io non ho nemmeno la voglia, la base del tango della Maiella, perché sono troppo incupito oggi su questo. Dall'altro vi racconto alcune delle spese istituzionali, cosiddette istituzionali, di Franco Fiorito, il quale è riuscito a caricare sui gruppi consigliari del PDL anche i 400 euro per il pezzo di ricambio di una lampada, veramente, ma non so nemmeno come definirlo, vabbè. E poi dal 15 al 21 agosto l'hotel San Pietro di Positano, 8.239 euro. Ma non basta, perché la cosa, c'è una lista lunghissima, vi do solo 3 esempi. Quando compra la casa in Costa Azzurra, inizia ad andare in Costa Azzurra Fiorito, chiaramente ci va come viaggio istituzionale. Ma voglio dire, Polverini, ma lei dov'era in quei momenti? Cioè, non si accorgeva che c'era uno sempre in giro in Costa Azzurra per il viaggio istituzionale? Vabbè, Due biglietti a Roma-Nizza, andata e ritorno, 2.320 euro. Paga pantalone, cioè noi e cioè gli abitanti del Lazio con le addizionali. E poi ci ritorna pagando altri 2.000 euro. Ma la cosa incredibile è che dimostra come il Consiglio regionale del Lazio fosse un colabrodo, nessuno controllava niente, ognuno si autogiustificava su tutto, è che il Consiglio regionale del Lazio, dal 4 al 7 agosto, nonostante il Consiglio fosse chiuso, Fiorito riesce a scrivere che va al Monte Carlo Beach Hotel e carica sulle spese di rappresentanza istituzionale, viaggio istituzionale del presidente Fiorito, il Consiglio regionale è chiuso, 9.034 euro per tre biglietti aerei e due stanze vista mare. Con Fiorito c'è Rodio e anche Raffaele Rodio e anche la signorina Marianna Calsin. Ancora Tenerife, autonoleggio in loco 3.000 euro, tutto addebitato al PDL, quindi rimborsato da noi. Rimborsi di locazioni per 15.000 euro. Poi potrei raccontarvi di tutti i vari presidenti della provincia che sono tentati dalle dimissioni per poi potersi candidare alle politiche, da Luigi Cesaro, provincia di Napoli, provincia di Biella, Roberto Simonetti si è già dimesso, e poi ancora ieri invece è stato un qui pro quo perché per sbaglio è corsa voce su Twitter che Podestà si stesse dimettendo, poi con conferenza stampa ha smentito, e potrei andare avanti con tanti altri casi. Chiudo con un caso solo, che riguarda la regione Sicilia, della regione Emilia Romagna, prima che me lo diciate voi abbiamo ampiamente parlato, e anche lì è scandaloso il numero di trasferte pagate ai consiglieri durante il periodo in cui il consiglio regionale dell'Emilia Romagna era chiuso. Ma vi dico solo una cosa, la regione Sicilia ha 1.600 dirigenti, ieri abbiamo raccontato che tutti questi dirigenti nelle varie regioni italiane arrivano tutti a prendersi il premio da 15 a 30 mila euro perché sono tutti riusciti a raggiungere l'obiettivo. Manco a Google riescono a essere così bravi, manco a Facebook i manager sono così bravi, però nelle nostre regioni lo sono. Ebbene, Raffaele Lombardo, a poche settimane dal voto, ha assunto un esterno come direttore del consorzio Autostrade Siciliane, applicandogli il contratto di dirigente generale. Se ne fottono. E il costo è tra i 700.000 e 1 milione di euro per 5 anni. Hai già 1.600 dirigenti così bravi che raggiungono tutti l'obiettivo. È possibile l'obiettivo prefisso e quindi il premio per l'obiettivo raggiunto? È mai possibile che tra 1.600 dirigenti, caro Lombardo, non potessi trovare uno per dirigere il consorzio Autostrade Siciliane e carichi la collettività di un altro milione di euro, una regione che è in crack, che ha 1 miliardo di buco sulla sanità, anzi di più, ma che vanta 6 miliardi di deficit, è tecnicamente fallita. Allora, io non ho altro da dire se non rinnovare l'appello, dare tutta la mia solidarietà agli imprenditori, agli artigiani che stanno scrivendo con figli, a chi ha ragazzi con difficoltà e si vede ridotto l'assistenza sanitaria, a tutti gli artigiani che non sanno se andranno avanti, i piccoli imprenditori. Domani in via Monterosa 91 racconteremo alcune delle vostre storie più emblematiche. Dalle 18.30 in poi l'accesso è chiaramente libero fino all'esaurimento di posti. E chiudere questa parte, veramente per me difficile, con il nostro solito appello, quinto potere, Sidi Lumè e poi Vasco Rossi. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Allora, la borsa e poi la manovra finanziaria, perché in tutto questo, mentre questo magna magna va avanti, e adesso è arrivata la notizia che la Guardia di Finanza sta indagando nella regione Piemonte per la parcella pagata all'architetto Massimiliano Fuxas, 20 milioni di euro. Mentre si sta scoperchiando l'ennesimo vaso di Pandora, il governo dà un'altra stretta. Comunque, la borsa, right, Meno 0,40% Milano come Francoforte, praticamente come Parigi, mezzo punto percentuale di calo. Londra meno 0,60, euro a quota 1,28. Non c'è stato il temuto effetto del Fondo Monetario Internazionale, a cui avrei voluto dare un gufo ben volentieri oggi, magari dopo lo facciamo, per aver stimato in 4.500 euro le possibili svalutazioni bancarie degli asset bancari in Europa. Il Monte dei Paschi però vive di una storia sua. È salita invece bene oggi Eni, più 1,85%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dopo il GR faremo Eni, vi do anche in pregilo che ha fatto più 3,60% e Salvatore Ferragamo più 2,40%. Negativa, dicevo, il Monte dei Paschi, meno 3,80%, Mediaset meno 3,30%, Popolare Milano meno 2%. Buzzi, Unicem anch'essa, e Unicredit perde il 2%, Diasorin l'1,80% come Mediobanca, e Azimut 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, non replico più a chi dice: ma perché parlate delle inchieste sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta nell'economia lombarda e nelle inchieste della Guardia di Finanza? Ormai oggi le regioni più requisite sono Lazio e poi, oltre a Lazio, Marche, Emilia, Piemonte, me ne sono dimenticata qualcuna perché ormai non ci sto più dietro. E Lazio, Emilia, Piemonte, Marche, eccola qua, l'Emilia Romagna l'ho detta, perché purtroppo, come sapete, anche l'effetto della criminalità organizzata sul territorio è un effetto economico. Mi dispiace che alcuni questo non lo capiscono. Su Equitalia non ho detto che Equitalia sbagli, Equitalia fa bene a fare il suo lavoro, ho solo detto che delle volte, dalle lettere di Disperati Mai, visto che domani ne leggeremo alcune, e alcune sono diventate dei cortometraggi di questo film festival che domani presenteremo alle 18.30 qui alla Sala Collina, via Monterosa 91, in alcuni casi c'è stato, tra virgolette, una insensibilità, alcuni lo chiamano accanimento, nel non capire cosa la crisi abbia portato per alcune imprese che magari si vedono richiedere i soldi dal fisco ma hanno lo Stato che paga in ritardo e rischiano di saltare per aria o sono chiuse per questo motivo. Ecco, di questo abbiamo parlato, abbiamo sempre difeso l'operato di Equitalia quando stana ai veri evasori e non appunto chi ha difficoltà a stare negli studi di settore per qualche decina di migliaia di euro, ma tutti i capitali che sono all'estero. Tra l'altro, Presidente Monti, ma che fine ha fatto l'accordo con la Svizzera sui 150 miliardi stimati di conti correnti, di soldi portati nella maggior parte dei casi illegalmente dagli italiani all'estero, accordo tipo quello tedesco? Non se ne è saputo più nulla. Comunque, torniamo con i mercati, con Eleonora Micheli. Monte dei Paschi, Eleonora. Monte Paschi è andato male, del resto, al di là del fatto che ieri si è tenuta una assemblea molto concitata, al di là di questo lo spread, ahimè, continua ad attestarsi su livelli elevati. Oggi ha chiuso oltre 360 punti, questa mattina all'asta dei titoli di Stato è andata bene, nel senso che sono stati collocati 11 miliardi, ma i tassi sono saliti. Sappiamo che il Monte dei Paschi è la banca più esposta nei confronti dei titoli di Stato, ne ha in pancia 27 miliardi e quindi ovviamente se i tassi non calano e quindi il prezzo dei titoli registra un rialzo, viene penalizzata. Ancora, dicevamo, di altri titoli medi, 7-3,20%, vorrei però concentrarmi anche su qualche titolo positivo. In pregilo Ferragamo e Eni, abbiamo detto più 3,60, più 2,40 Ferragamo, più 1,80 Eni. Sì, per quanto riguarda Impregilo c'è la notizia che la famiglia brasiliana Almeida vuole Ecorodovias, la società che controlla le autostrade brasiliane, in particolare vuole la quota del 19% ed è disposta a pagare 770 milioni, ha rivisto al rialzo l'offerta rispetto ai 763 milioni, ma soprattutto ha detto che acquisterà anche l'ulteriore 10% che rimane a Impregilo, invece prima aveva indicato che avrebbe al limite acquistato solo il 5%. 1%. Quindi ovviamente sulla scorta del fatto che possa essere venduta questa quota, le impregilo sono andate bene, oltre che pare che nella bozza della legge di stabilità ci sia lo stanziamento di 300 milioni per la mancata costruzione del ponte di Messina. Impregilo, ricordiamo che tre costruttori, ne beneficerebbe in questo caso ottenendo fino a 150 milioni, almeno secondo i calcoli degli esperti. Per quanto riguarda Ferragamo, oggi è andato bene tutto il settore del lusso in Europa, soprattutto comunque si è risvegliato anche a Piazza Affari il settore del lusso, anche in vista del fatto che domani alla Borsa Italiana ci sono organizzati una serie di incontri tra investitori istituzionali e aziende del lusso, e chissà, in vista che possano arrivare nuove notizie, c'è qualcuno che evidentemente già sta scommettendo prima sulla buona performance dei titoli. Sì, comunque, come ricordavamo prima, non c'è stato l'effetto negativo delle dichiarazioni del Fondo Monetario Internazionale, che ha stimato in 4.500 miliardi di euro il calo che potrebbe arrivare alle banche europee dalla svalutazione degli asset delle banche stesse. Asset svalutati, dice il Fondo Monetario, per fino a 4.500 miliardi di euro. Gli asset sono le partecipazioni bancarie. Chiudiamo per quello che riguarda la borsa anche con altri titoli, oltre al mondo bancario che prima ricordavamo, ma ripeto, non c'è stato un calo fortissimo. Vorrei chiudere su Pirelli, perché qui la situazione si sta leggermente complicando. C'è il consiglio di amministrazione della Camfin che dovrebbe pronunciarsi sulle finanze dell'azienda, e ieri e di ieri la notizia dell'esposto della famiglia Malacalza alla Consob contro i Tronchetti. Sì, il consiglio di amministrazione di Camfin, il socio di riferimento di Pirelli, dovrebbe essere appena iniziato. Ricordiamo che dovrebbe varare il lancio del bond, si parla di circa 170 milioni di euro di bond convertibile in azioni Pirelli, però a questo punto il condizionale è assolutamente d'obbligo, soprattutto dopo la notizia a sorpresa di ieri che la famiglia Malacalza ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro Tronchetti Provera. Quindi è evidente che c'è uno scontro in atto, si era cercato alla fine anche di gettare acqua sul fuoco, ma evidentemente lo scontro è violento e vedremo che cosa accadrà questa sera al termine del consiglio di amministrazione. Su Fiat invece, taglio del rating da parte di Moody's, dice Marchionne, non è una sorpresa. Ha chiesto Marchionne uno stop agli accordi di libero scambio a livello europeo, cioè l'Unione Europea deve smettere di firmare accordi di libero scambio, e ha detto Marchionne non prevediamo una ripresa nel 2013. I titoli, beh, Industrial, ossia Fiat camion e trattori, meno 0,60%, Fiat Auto invariata. Invece devo dire che molti di voi ci stanno scrivendo su quella frase, a mio avviso molto infelice, di Marchionne nel rispondere alle critiche che aveva mosso Matteo Renzi sul progetto, sul piano Fabbrica Italia. Renzi aveva affermato che così si prendono in giro gli operai. Beh, Marchionne ha risposto, Renzi è una brutta copia di Obama, ed ha aggiunto, è il sindaco di una piccola, povera città. Allora, uno di Renzi può pensare quello che vuole, però perché offendere Firenze, Marchionne? Anche perché lei è originario di Chieti, conosce Firenze, insomma, dai, piccola mi sembra proprio, povera anche meno. Città, dai, non è così, è una bellissima città, una delle più belle città al mondo. Glielo dico perché magari la Fiat qualche auto vorrà venderla anche a Firenze. Comunque, grazie Eleonora Micheli. Ultima parte di Focus Economia. Scrive un ascoltatore: il problema è che agli amministratori delle regioni mancano i valori. No, guardi, è troppo facile la battuta. I valori ce li hanno, i valori che vorremmo noi non ce li hanno. Gli altri valori mi sembra che ne abbiano usati a sufficienza, sprecati a sufficienza. Raccontavamo prima di tutto quello che sta emergendo, e non solo Franco Fiorito, anche se lui è proprio il principale. Detto ciò, mentre scopriamo ogni giorno nuovi sprechi delle regioni e non solo, il governo aumenta l'IVA di un punto percentuale nonostante le rassicurazioni, riduce l'aliquota IRPEF nelle due fasce, quelle più basse, ossia dal 23 al 22% per i redditi fino a 15.000 euro e dal 27 al 26% per lo scaglione tra i 15 e i 28.000 euro. La buona notizia, a mio avviso, è che tornano sotto la gestione di Equitalia le riscossioni delle multe per le quote latte, e che dovrebbe andare avanti il piano di pagamenti per gli arretrati della pubblica amministrazione. It's getting late, but I don't mind. It's getting late. Allora, sul calo delle tasse poi non c'è un parere concordante, nel senso che c'è un calo teorico fino a 280 euro, però è teorico perché per alcune categorie di reddito è attualmente prevista un'area di esenzione, quindi non beneficeranno del calo, per cui chi ha reddito tra 10 a 16 mila euro ha zero benefici, e da 0 fino a 160 euro. Invece il calo dell'IRPEF, delle prime due aliquote beneficeranno anche tutti gli altri contribuenti che magari dichiarano molto di più, ma sapete, si paga ad aliquota, a scaglioni. E secondo la CGIA di Mestre invece questo penalizza gli incapienti, gli 8 milioni di incapienti, perché questi non pagano l'IRPEF ma pagheranno di più con l'aumento dell'IVA al 22 di un punto percentuale al 22%. E dal 10 all'11%, 5-6 miliardi arriveranno al governo da questo. Dino Pesole, buonasera. Buonasera. Dunque, la domanda è molto semplice, al di là delle varie tecnicalità, adesso le esamineremo. Insomma, è rientrata questa IVA, no? Dopo 2000 assicurazioni, che è uscita dalla bozza, grilli, l'IVA rientra, e per di più c'è anche 1,5 miliardi di tagli alla sanità. Il miliardo che arriva dalla Tobin Tax mi sembra molto teorico. Insomma, è una manovra obiettivamente finanziaria, fine. Sì, è una manovra a tutti gli effetti. Abbiamo l'aspetto più controverso, che direi proprio questo, relativo allo scambio IVA-IRPEF, perché obiettivamente, se dal fronte dell'IVA è possibile immaginare che ci sarà un nuovo impatto negativo sui consumi, non è altrettanto facile stimare quali potrebbero essere gli effetti positivi su, come dicevi tu poc'anzi, dell'alleggerimento dell'IRPEF. E dunque lo scambio al momento quantomeno è a saldo zero. Poi occorrerà verificare nel prossimo anno, quando andrà effettivamente in vigore, se questo saldo zero potrà in qualche modo evolvere in positivo verso un potenziale, ma secondo me molto scarso, diciamo impulso ai consumi, perché è evidente che concentrare gli sgravi sulle fasce di reddito basse non consente di stimare quale possa essere, certo, l'effetto propulsivo. Anche perché credo che sia molto modesto. Anche ha ragione chi dice, tanto una parte di quella fascia lì è già esente dalle tasse, quindi non avrà benefici ma avrà un danno per l'IVA in aumento. Il resto, attenzione, alcuni dicono anche gli evasori ringraziano. Vabbè, allora non è che si possano fare le riduzioni di aliquota pensando sempre agli evasori. È chiaro che le categorie che raccontiamo in questi mesi, i 18.000 euro medi dichiarati dai gioiellieri in Italia, i 23.000 euro dichiarati in media dagli albergatori e dai ristoratori in Italia, beneficeranno di questo, e lì, lasciatemelo dire, un po' di evasione c'è, a essere buoni, perché è una media. Ne beneficeranno anche tutti quelli che hanno redditi superiori, perché comunque avranno una riduzione di quel carico lì. Questo potrebbe avere un effetto positivo. A me è molto sorpreso invece il taglio alla sanità, 1,5 miliardi, non ce lo aspettavamo. Significa, Dino, che comunque la virata, la manovra correttiva, come andrebbe chiamata, è una manovra che serve a rimettere un po' in ordine, nonostante le varie dichiarazioni, un deficit che continua a aumentare, che sennò non si spiega un taglio così forte alla sanità. Beh, dunque, il discorso che ha fatto il governo adesso, ovviamente dobbiamo vedere le carte, perché come sempre, questa notte c'è stata l'approvazione formale, ma ora i tecnici della Regione IVA stanno mettendo a punto le tabelle e la relazione tecnica. In linea di massima, da quello che si sa, si dovrebbe autocompensare, quindi non dovrebbero esserci effetti sul saldo, fermo restando però che la manovra sulla spesa è abbastanza impegnativa, è seria, perché a parte i 3-4 miliardi che vengono sopra gli enti locali e le regioni e i ministeri, ma c'è questo aspetto della spesa sanitaria che francamente è abbastanza difficile da digerire. Io credo che su questo aspetto il Parlamento dirà la sua, perché appunto non dimentichiamo, sì, che questo, esatto, questa è una proposta. E già Bersani ha detto che ci sono alcuni punti da correggere di questa manovra. Nel ringraziare Dino Pesole, però Saluto anche il direttore dell'ufficio studi di Centro Marca, che raggruppa le principali marchi di questo paese, Roberto Bucaneve. Buonasera. Buonasera. Ascoltiamo che cosa ha detto a difesa della manovra oggi qui al Sole 24 Ore nel corso del Consumer e Retail Summit. Da un lato Giuseppe Tripoli, capo dipartimento per le imprese e l'internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, dall'altro invece Sami Khale, che è presidente e amministratore delegato di Procter & Gamble Italia. Li ha intervistati ambedue la nostra Maria Luisa Pezzali, li faccio ascoltare in sequenza. Io credo che la scelta che sia stata fatta sia stata quella di far sì che le fasce più deboli della popolazione, quelle che hanno scaglioni IPEF più bassi, tengano in tasca più soldi rispetto all'anno scorso, in modo da poterli utilizzare anche alimentando una spesa per consumi. Io credo che le due misure si bilancino a vicenda e che soprattutto ci sia una direzione fortemente orientata verso le fasce più deboli della popolazione. Nel mondo dei consumi, nel mondo dei retail ci sono già malumori comunque per questo aumento dell'IVA che era sembrato potesse essere scongiurato. Io credo che il governo abbia fatto tutto il possibile per evitarlo. La previsione era che ci fosse un aumento di 2 punti percentuali il prossimo anno, l'aumento è stato contenuto in 1 punto percentuale. È chiaro che questo avrà una ripercussione sui consumi. Io credo che le valutazioni che siano state fatte siano quelle che dicevo poc'anzi, e cioè che questo impatto sui consumi sia controbilanciato dall'impatto positivo sui consumi che ha la riduzione di 1 punto percentuale delle aliquote dei primi 2 scaglioni IPEF. Un aumento di 1 punto ha sicuramente un effetto sui consumi, quindi mette pressione sul mondo della distribuzione, sulle aziende e impatterà il consumo. Penso che si sta facendo un buon lavoro per cercare di ridurre i costi a livello di paese, si deve continuare su quella strada, è però importantissimo rilanciare l'economia e i consumi, perché sennò poi alla fine i numeri non torneranno. Allora, questo appunto Sami Khale, presidente amministratore di Procter & Gamble. Dottor Bucaneve, in 2 minuti la vostra analisi. Ma la nostra analisi è fondamentalmente di forte preoccupazione per questa decisione del governo, per questa proposta del governo, perché un aumento dell'IVA di un 1% nelle nostre stime genera un impatto molto forte sui consumi. Stimiamo uno 0,3% in meno sull'alimentare e uno 0,5% in meno sui prodotti non alimentari, quindi impatti molto forti, aumenti dei prezzi dello 0,6% nell'alimentare, quindi impatti che sono significativi in un contesto che nel complesso è molto recessivo, fortemente recessivo. Che ci sia uno scambio IRPEF-IVA a favore delle fasce più deboli, naturalmente è un'ipotesi di lavoro, ma sarà tutta da dimostrare, perché l'IVA è sicuramente produce sicuramente i suoi effetti in termini di aumento dei prezzi e di riduzione dei consumi, mentre invece il vantaggio IRPEF si tratta di vedere come verrà utilizzato dai consumatori, non è detto dai cittadini, non è detto che venga riportato immediatamente al consumo. Quando questo non succede, poi si hanno effetti sui consumi, ma le imprese naturalmente ne soffrono, riducono anche loro gli investimenti e dunque nel medio periodo ne hanno a soffrire anche l'occupazione e la tenuta del sistema nel complesso. Allora, come però ricordava Dino Pesole, attenzione, questa è la proposta del governo, diciamo così, il documento del governo, poi dovrà andare in Parlamento. E lì mi aspetto che qualche problemuccio ci sia, anche perché ci si avvicina alla scadenza elettorale. Grazie intanto comunque al direttore del Centro Studi di Centro Marca. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto buona serata a tutti, nonostante tutto. Radio 24, la passione si sente.